Radio Onda Rossa 87.9, la modulazione di frequenza dal 1977, libera da padroni e pubblicità, la voce dei senza voce, la radio di chi se la sente. Per contribuire a farla vivere, uno dei modi è la sottoscrizione sul numero di conto corrente postale 61804001, da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56 00185 Roma. Oppure basta andare sul sito della radio, sito internet della radio, ondarossa.info, sull'home page c'è Sostieni per la modalità PayPal. Siamo al momento del cinema, giovedì 17 dicembre del 2015. Per ascoltarci potete andare in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, ma anche in streaming, perché sull'home page del sito della radio c'è Ascolta la diretta. Per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Per quanto riguarda le informazioni sulla trasmissione di oggi e visionari più in generale, trovate tutto sul sito della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni visionari, e anche sulla pagina Facebook. Eccoci con Andrea Pickler, regista del documentario Europe for Sale. Andrea, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao a tutti, ciao, grazie. Ho avuto modo di vedere il documentario quest'estate al Clorofilla Film Festival. Complimenti, un bel lavoro. Raccontiamo a chi ci ascolta di cosa si tratta, Andrea. Ma un sorta di viaggio attraverso l'Europa alle tracce di proprietà pubbliche vendute. Si parla di foreste, si parla di montagne, ma anche di palazzi. Che in 7-8 paesi che io ho viaggiato stavano per essere venduti o sono già stati venduti, eccetera eccetera. Insomma, un film sulla privatizzazione in grande stile, ecco. Forse la cosa più sorprendente è che queste cose succedono spesso all'insaputa dei cittadini. È spesso il momento in cui vengono pubblicizzate è già troppo tardi, ecco. Senti, com'è nata la spinta a questo lavoro? Ma è nato insieme a una colloquio, una collaborazione con la casa di produzione Graffiti Doc di Torino, Enrica Capra, che ha avuto questa primissima idea che poi abbiamo sviluppato insieme. Io in qualche maniera mi sono già occupato del tema della privatizzazione nel mio, diciamo, lavoro precedente su Venezia, Teorema Venezia, che è anche uscito poco tempo fa in DVD, che racconta quello che succede in una città come Venezia col turismo di massa e con la speculazione immobiliare, che, diciamo, i cittadini veri e propri stanno scomparendo, ecco. E, diciamo, è stato il primo passo mio verso queste tematiche qua, che secondo me sono molto importanti e lo saranno ancora di più nel futuro, ecco. Senti, quali sono stati i paesi che avete percorso? Ma abbiamo iniziato con l'Austria, diciamo, zona di frontiera molto vicina dove io abito, in Alto Adige, dove stavano per essere vendute due intere montagne all'insaputa dei cittadini dei paesi sotto. Poi ha fatto una seconda tappa molto importante in Irlanda, dove proprio per la politica di austerità, perché l'Irlanda ha avuto dei casini come molti altri paesi, ma forse un po' di più nel 2008, e lo Stato per far cassa. Dicevi che lo Stato per far cassa ha cominciato a vendere. Mm-hmm. Sì, lo Stato in Irlanda ha iniziato a vendere un po' di tutto, e una delle cose che era in vendita erano praticamente i boschi, completamente i boschi dell'Irlanda, quelli statali, che è, diciamo, 5% della superficie dell'Irlanda. Tutto questo all'insaputa della popolazione. Poi ci sono stata, diciamo, una serie di gruppi attivisti che hanno, insomma, sono venuti a sapere di questa operazione, stavano per venderla a un fondo svizzero di investimento, e hanno pubblicizzato la cosa, si sono attivati, eccetera eccetera. Poi a un certo punto la popolazione si è resa conto che poteva succedere che in questa maniera nessuno poteva più mettere piede su questi boschi pubblici, quelli, diciamo, i boschi dello Stato. Sì, sì. E hanno iniziato le proteste in varie parti del paese. Alla fine il governo ha dovuto ritirare questa mossa qua, ecco. Mm-hmm. Forse quello che è apparso un po' nei vari paesi. Poi ovviamente, diciamo, il paese culmine del viaggio è poi stata la Grecia, dove stavano per essere, o stanno tuttora per essere vendute intere isole. Ecco, noi ci siamo occupati di una penisola bellissima, poi anche sotto protezione naturale, nel nord di Corfù, che è stata poi alla fine venduta a un fondo investimento americano per un villaggio turistico, ecco. Sì, qui in Italia per esempio è stata il caso dell'isola di Budelli in Sardegna, per dirne una. Sì, insomma. Sì, un po' simile, ecco. Sì, sì, sì, sì. E, diciamo, quello che però per me è stato, diciamo, una scoperta in qualche maniera, che in molti casi dove poi le popolazioni locali si sono iniziate a muovere, si è potute anche fermare a certe operazioni, per cui c'è la speranza che comunque con un po' di attività, attivismo, eccetera eccetera, alcuni processi possano essere fermati. Purtroppo succede, come detto all'inizio, spesso troppo tardi, ecco. Se non ci sono gruppi già attenti sul territorio, queste notizie escono quando hai fatti compiuti, spesso, purtroppo. Senti, allora, ricapitolando, Austria, Irlanda, Grecia e poi anche Francia, Italia, Germania. In Germania aveva raccontato l'esempio della striscia lungo la Spree, il fiume che passa a Berlino, dove una volta c'era il muro praticamente. Sì. O la zona di morte tra i due muri, dove i terreni già negli anni 90 sono stati, all'insaputa di tutti, sono già stati venduti quasi tutti. Poi qualche anno fa, quando questi terreni sono iniziati a essere molto interessanti a livello di speculazione immobiliare, alcuni hanno iniziato a costruire edifici, e in quel momento quel spazio, che ormai è diventato, diciamo, uno delle zone più centrali e molto vissute dei berlinesi, stava per essere chiuso, l'accesso per esempio alla Spree, al fiume, eccetera eccetera, e anche lì sono iniziati i casini, diciamo, di manifestazioni, eccetera eccetera, anche un po' perché lì poi è veramente si è acceso il discorso su chi è il proprietario della città, chi può decidere sul destino della città. Sì, insomma, sì, sì. È una tematica che a Berlino è ancora tutta attiva, perché sono molte zone che ancora non sono, diciamo, completamente edificate. Sì. Ecco, poi Francia, Italia e un piccolo capitolo a Barcellona, dove c'è un parco che è stato privatizzato, ecco. Sì, sì, sì. Senti, per quanto riguarda l'Italia? Ma in Italia abbiamo preso l'esempio del Colosseo, che per fortuna non è stato venduto come lo voleva il piano di Berlusconi di qualche anno fa, ma dove per l'assurdità dei fatti si aveva bisogno di un grande investitore privato, che poi alla fine è stato Della Valle, per metterlo a posta, e pensando che quello particolare fosse il monumento più importante che c'è in Italia, anche a livello proprio di iconografia. Sì. Ha bisogno di un privato per essere messo a posto, che poi per modo di Dio è rimasto, diciamo, abbastanza discreto, però comunque ovviamente c'è anche guadagnato poi sull'immagine il fatto che lui ha sostenuto il restauro di questo monumento. In più c'è tutta una privatizzazione strisciante che riguarda tutto diciamo, lo sfruttamento a livello turistico, il fatto che i biglietti costano 10 euro, dove allo Stato arrivano, no, pochissimi euro, eccetera eccetera, per cui è più mi interessava più vedere come c'è una sorta di privatizzazione strisciante. Sì, ecco. Sì. Senti, dal tuo lavoro emergono dei tratti comuni, ossia la segretezza di queste operazioni, la sottrazione di beni pubblici, alla fine di spazi pubblici, e spesso ad opera di capitali privati transnazionali, e poi la riduzione del potere politico che amministra il bene comune a un esercizio economico che spesso è simile in tutti i luoghi che avete posto sotto la lente d'ingrandimento. Insomma, sembra più una gestione economica che deve rispondere a dei dettami precisi, per cui le operazioni sono molto simili in tutti i luoghi. Sì, sì, assolutamente. Poi per me una delle scoperte forse più eclatanti è che in molti paesi esistono proprio delle ditte private che sono, diciamo, al 100% di proprietà dello Stato, però queste ditte fungono da venditori, sì, di questi beni, sì, pubblici. Il fatto che sono legalmente delle SRL, cioè delle società private, gli permette di operare in maniera molto più libera. Non hanno bisogno di nessun tipo di risposta a livello parlamentare o quel che vuoi, per cui ma questo comunque già da anni, sì, cioè, sì. In Italia Berlusconi ha poi messo su questa agenzia che si chiamava Italia SRL che poi alla fine ha dovuto di nuovo chiudere perché sono stati dei dibattiti troppo accesi ormai già quasi 10 anni fa. Però in molti altri paesi comunque queste ditte operano, anche in Germania, per dire. Sì. E insomma, c'è tutto un strano sostrato di togliere dal controllo pubblico una serie di poteri e poi alla fine di proprietà di cose che appartengono a noi tutti in questa, certo, maniera. Certo. Senti Andrea, questo chiaramente, dimmi. Scusa, per chiudere, chiaramente ha molto a che fare con la crisi, sì, però non, sì, solo, ecco, non solo, è un processo che è iniziato già prima, certo, con la crisi si è accentuato, ecco, certo, sì. Senti Andrea, per saperne di più sul tuo lavoro, anche su un eventuale calendario di proiezioni, in internet dove si può cercare? Ma al momento non c'è ancora, cioè c'erano dei piani di un vero e proprio distribuzione italiana, però ancora, diciamo, all'inizio. Forse la cosa migliore è guardare sotto il sito di graffitidoc.it, che è la casa di produzione di Torino, ecco. Bene. Allora Andrea, io ti ringrazio, è stato un piacere e ancora complimenti e ci sentiamo per i prossimi lavori. Va bene, grazie mille, grazie a te. A presto. Ciao, ciao Andrea. Ciao. Ciao. Andrea Pickler, regista del documentario Europe for Sale. Eccoci con Massimo Denaro, regista del documentario Zac, I fiori del male. Massimo, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno a tutti. Allora, cos'è Zac, I fiori del male? Cos'è? È un omaggio a Pino Zac, praticamente, il 30° dalla morte. È il mio saggio di diploma al centro sperimentale Sede Abruzzo, sì, dell'Aquila, e racconta appunto un po' le vicende di Pino Zac. È stato il più grande autore satirico che abbiamo avuto qua in Italia negli ultimi 40 anni almeno. Da lui avviò la stagione del male, la rivista culto degli anni 70, no? Eh sì. Sarà il fondatore e il direttore per tutti i primi numeri. Nel film si racconta appunto anche questa stagione del male, dei primi 3 numeri diretti da Pino Zac. E questo, insomma, partendo sempre però dalla sua ultima residenza, la sua casa a Fontecchio. Lui era abruzzese praticamente d'adozione, è andato a vivere in una sorta di castello a mezz'oretta dall'Aquila, e io ho avuto la fortuna e l'onore di poter girare dentro questa ultima residenza, di trovare un universo, insomma, di segni, di testimonianze, di tracce completamente sepolte, eh? Comunque si parla di una di quelle personalità completamente dimenticate nel panorama culturale italiano. Senti Massimo, come era partita l'idea di questo documentario? È partita appunto nel momento in cui ho scoperto questo posto pazzesco. Io, come dicevo appunto, ho studiato lì all'Aquila, no? Sì. Al centro sperimentale. Sì. E ho scoperto a mezz'oretta appunto da dove mi trovavo, c'era questo posto abbandonato, e un set praticamente alla fine, con una casa completamente abbandonata, sepolta nella polvere. E quindi sono andato in sopralluogo, poi ho scoperto che era pure la casa di Pino Zacchi. Io Pino Zacchi l'avevo conosciuto all'università studiando grafica, no? Sì, sì, sì, sì. E c'era il mito dell'indipendenza, di questo autore indipendente fino all'ultimo, a tutti i costi soprattutto. Lui amava definirsi sempre contro, no? In perfetta continuità con quello che era il suo giornale di riferimento. Lui è stato uno dei più grandi autori, soprattutto del Canard en Chanet, che è il giornale satirico per eccellenza, quasi un secolo di storia in Francia, vende 400.000 copie. Sì, sì, e sì, quindi sì. Insomma, una volta che ho avuto questa possibilità, non potevo non raccontarlo. Senti Massimo, e parliamo oltretutto di uno dei padri dell'animazione, eh? Sì, perché sì, sì, sì. Nel 62 va agli Oscar, in nomination, vince a Venezia, quindi parliamo della stagione anche della grande animazione italiana, che faceva concorrenza a Disney. In questi giorni parliamo di Star Wars, no? Sì. Anche troppo. E beh, Pino Zacchi è stato uno dei primi a sperimentare gli attori dentro le animazioni, che si muovono e interagiscono con le animazioni. Sì. In Italia si producevano questi film, c'era lui, c'era Bozzetto, c'era Manfredi, c'erano i fratelli Gavioli, insomma una stagione completamente dimenticata della nostra cultura. Senti, per quanto riguarda la parentesi del male, per chi ci ascolta, soprattutto per i più giovani, raccontiamo in breve gli inizi e poi cosa ha significato il male per l'Italia. Beh, praticamente ha significato il ritorno della satira in Italia, dopo negli anni 50 si era calato completamente un bavaglio democristiano di autocensura, di censura e autocensura, si finiva in galera per delle vignette. Quindi questo è il ritorno della satira, questo si deve affrontare. E poi costituisce insomma una vena surreale, una capacità di ridere su tutto. È stato un giornale culto perché era capace di dissacrare qualsiasi cosa. Ora, nel documentario si vede una delle copertine principe, dei primi numeri, sì, in cui tu immagini in copertina ti trovi un Aldo Moro disegnato come se fosse un cazzo in copertina. E questa copertina esce nel momento in cui, negli stessi giorni in cui viene rapito. Il male viene accusato per lo stesso numero di aver di essere stati complici del rapimento. Sì. E dentro questo stesso numero loro, e qua la vena surreale, loro ipotizzavano il futuro dei politici, prendevano il futuro dei politici, si inventarono questo scherzo, no? Come se si legge, immagina, c'erano delle letture delle mani di tutti i principi politici italiani. Tra questi politici c'era pure Moro, e Moro si prevedeva una carcerazione che avrebbe fatto una brutta fine, e così via. Senti, vengono completamente attaccati da tutto, da stampa, l'unità, dai titoli attaccandoli. Quindi cavolo la dose che si continua. Questo era il giornale che faceva le battute del paese. Sì, sì, sì. Oh, tra l'altro diciamo, aggiungiamo anche che ha avuto poi un'esplosione per diffusione, ha toccato le centinaia di migliaia di copie, ha sfornato artisti ha sfornato artisti come Pazienza e Tamburini, per dirne solo alcuni, e ha subito anche dei sequestri. era la loro pubblicità per certi versi sequestri. Nel momento in cui tu sapevi che puntualmente il giornale sarebbe stato sequestrato e veniva sequestrato puntualmente, c'era la ressa, c'era la corsa alle edicole. E quindi fatto sta, come raccontano tutti, da Vincino a Bauro, a Mannelli, a Zaroli, insomma, mi raccontavano di queste corse alle edicole, e alla fine si fanno i resi alla censura. Di censura un po' all'antica, ora esistono altri tipi di censura. Sì. Senti Massimo, e come è strutturato il lavoro? Hai realizzato interviste? Hai avuto accesso a materiali d'archivio? Esattamente, sì, un po' tutto. Sì. Sia di riprese dentro ovviamente questa residenza di cui ti dicevo, a Fontecchio. E poi sì, materiali d'archivio quanto riguarda le animazioni, il track o le trasmissioni televisive, nel quale lui schizzava, faceva le vignette live dei principali personaggi, e poi delle interviste, sì, coinvolto praticamente le principali anime del male, quindi Vincino, Vauro, Jacopo Fo, Riccardo Mannelli, Walter Zarroli e poi l'ex moglie di Pino Zac, l'unica moglie di Pino Zac, Dromira Biligova, e insieme a loro cercavo di ricostruire soprattutto la persona di Pino Zac, che veramente, cioè, io sono dell'87, mi interessa sia riscoprire la figura artistica, che è completamente dimenticata, ma mi interessava, alla luce di questa casa abbandonata, mi interessava anche tantissimo l'aspetto umano. Sì, cioè, cosa può portare a una personalità del genere ad andare sempre contro, sempre rimettendoci in prima persona, e lui, qua ti dico proprio una frase, Vincino avesse detto, Pino Zac gli ha attaccato questa malattia del fare satira alla generazione che viviamo attualmente, gli autori satirici, no? Sì. Senti, quindi sì, è un mix di linguaggi il film. Sì. Massimo, in chiusura due curiosità, una rispetto ai materiali d'archivio del male, se sono accessibili e dove si può cercare, e il secondo è sul tuo documentario, se è fruibile in qualche modo, se si possono avere informazioni online. Allora, per quanto riguarda il documentario, c'è una pagina su Facebook che è accessibile a tutti, anche a chi non è iscritto, si può vedere, basta cercare come facebook.com/PinoZacFilm, okay, o cercando dentro la ricerca, insomma, Pino Zac si spunta. E il film, appunto, è un saggio di diploma centro sperimentale, quindi noi domani sera c'è una proiezione al Sulmona Cinema, alle ore 18, sta girando così nel circuito dei festival. Sì. Quindi per richieste o quant'altro, insomma, si può fare riferimento a questo contatto che vi ho dato. O al centro sperimentale dell'Aquila. Sì. Poi per l'archivio del male, io ho avuto accesso al libro di Vincino, no? Sì. Sul male. Sì. Che praticamente si fa un ottimo compendio che sia, insomma, è ricco di immagini, sia di chicche su tutto il giornale, dagli inizi fino agli ultimi giorni. Bene. Poi l'archivio si è un po' spartagliato. Andarselo a cercare. Massimo, io ti ringrazio, è stato un piacere, ci sentiamo magari prossimamente. Grazie per altre novità. Grazie a voi. Un abbraccio. Ciao Massimo. Ciao. Massimo Denaro, regista del documentario Zac, I fiori del male. Eccoci con Paolo Serra, direttore del CSC Carbonia Iglesias, società umanitaria, per parlarci del progetto XD, Memorie in Movimento, la fabbrica del cinema, che sarà a Carbonia dal 18, da domani, fino al 20 dicembre. Paolo, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie Federico, un caro saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Allora, raccontiamo intanto cos'è questa società umanitaria. La società umanitaria è una ex IPAB, un ente benefico che nasce nel lontano 1893 con riconoscimento da parte del re. È un ente storico, assolutamente, con uno statuto votato ad aiutare i più diseredati. Nello statuto c'è una voce bellissima, lo scopo principale dell'umanitaria era quello di aiutare gli altri a elevarsi da se medesimi, ed ecco perché la società umanitaria vanta una grandissima tradizione, soprattutto nel passato, ma come dire anche oggi nel presente, nell'ambito della formazione professionale. Fior fior di tecnici, ma anche di grandissimi intellettuali, hanno affollato le fila dei dipendenti e non solo dei dirigenti della società umanitaria. La società umanitaria gestiva all'epoca numerosi centri in diverse parti d'Italia. I centri di servizi culturali in Sardegna peraltro sono 5, 3 sono collegati alla società umanitaria di Milano, 2 ad un altro ente che è l'UNLA, l'Unione Nazionale Lotta all'Analfabetismo. Noi operiamo attraverso la gestione umanitaria, anche se siamo finanziati al 100% dalla Regione Autonoma per la Sardegna, in un passaggio che prima apparteneva alla Cassa per il Mezzogiorno. Ho cercato di condensare. Sì. CSC sta per Centro di Servizi Culturali. Certo, i servizi culturali. In qualche modo, diciamo che intorno agli anni 60 nascono i centri di servizi culturali anche in Sardegna, ed erano, come dire, la risposta, una sorta di piano Marshall per affrontare le sacche di povertà culturale che erano assolutamente presenti nel territorio isolano. Ed ecco anche la collocazione strategica dei centri di servizi culturali. Noi stiamo Carboni Iglesias, diciamo, in realtà oggi la sede è a Carboni, anche se nel 1967 è nata di Iglesias. Il centro servizi culturali, altro sempre dell'umanitaria, è presente a Cagliari, a cui peraltro è collegata la Cineteca Sarda, che è l'unica cineteca regionale presente in Sardegna, e l'altro centro di servizi culturali dell'umanitaria è ad Alghero, mentre invece quelli dell'UNLA sono ad Oristano e Macomer. Come dire, si copre un territorio di riferimento provinciale piuttosto importante. Sì, in qualche misura questo è il ruolo che hanno svolto i CSC. Allora, passiamo al progetto, questa 3 giorni a Carbonia dal 18 al 20, XD, Memoria e Movimento, la Fabbrica del Cinema. Di cosa si tratta, Paolo? Allora, la Fabbrica del Cinema è un progetto che nasce come idea circa 10 anni fa e trova una sua prima concretizzazione nel 2007 attraverso un protocollo d'intesa siglato, oltre che naturalmente dalla società umanitaria, anche dal comune di Carbonia, dal comune di Iglesias, zona limitrofa, l'Agenzia regionale per il lavoro, il Parco geominerario storico ambientale della Sardegna e la provincia di Carboni Iglesias. Lo scopo qual era? Fabbrica del Cinema può sembrare, come dire, un nome importante, addirittura altisonante. In realtà per fabbrica noi intendiamo, oltre che la possibilità naturalmente di produrre ex novo storie, per quanto ci riguarda soprattutto legate ad un discorso di conservazione e di valorizzazione della memoria storica, ma naturalmente vogliamo aprire anche a chi avrà interesse nel sfruttare, come dire, la location del territorio del Sulcis Iglesiente, del sud-ovest sardo, quale potenziale appunto sfondo per realizzare i propri lavori, siano di fiction che di documentario. In questo primo step però la Fabbrica del Cinema ha uno scopo fondamentale, intanto quello di restituire alla città e al territorio uno degli edifici più importanti del compendio minerario di Serbariu Carbonia, ovvero la ex direzione amministrativa, da qui il nome. Perché Memoria in Movimento? Perché di fatto quello che andremo a fare in questo primo passaggio è letteralmente aprire a tutti quello che è l'archivio di memoria del territorio del Sulcis Iglesiente. La società umanitaria, il centro di servizi culturali, si è sempre occupato di preservare la memoria storica del territorio, l'ha fatto attraverso documenti fotografici e attraverso la documentazione mediante attività laboratoriali che spesso venivano svolte in collaborazione con le scuole. Dal 1983, anno in cui si comprò una delle prime attrezzature professionali, le famose C1 in versione umatiche, quando il magnetico imperava nella sua forma migliore, realizzammo diversi documenti, ripeto, sia di fiction che documentari o animazioni. Tutti questi lavori sono stati conservati, sono stati digitalizzati e oggi saranno a disposizione di chiunque voglia conoscerli, semplice pubblico, incuriositi, ma anche studiosi, studenti, perché no, turisti che hanno il piacere di riscoprire il sud-ovest sardo, magari dopo tanti anni che mancano, e rivedere com'era anche l'aspetto, come dire, urbano, morfologico del territorio, in particolare di Carbonia, attraverso questi filmati. Ecco Paolo, questo archivio che periodo copre storicamente? Allora, noi abbiamo filmati che risalgono dagli anni, diciamo, 40, attraverso un progetto capillare su tutto il territorio regionale che si chiama La tua memoria, la nostra storia, che ci ha consentito di raccogliere, ripeto, su tutto il territorio regionale, qualcosa come circa 8.000 pellicole nei formati 8, Super 8 e 9,5. In questo modo abbiamo potuto raccogliere veramente tanto, dal territorio diverse centinaia di pellicole, la più vecchia si riferisce alla fine degli anni 40, fino ad arrivare come dire agli anni fine anni 70. Questo per quanto riguarda i materiali in pellicola. Del magnetico abbiamo detto, sono oltre 450 documenti audiovisivi realizzati in tutto il territorio del Sulcis Iglesiente. In più, oltre a questi, ci sono alcune centinaia di filmati rivenienti dal concorso Cinema, Lavoro, Migrazione. Il lavoro e la migrazione sono due temi, due tematiche particolarmente importanti per noi, anche perché purtroppo è tristemente noto come il sud-ovest sardo in generale, ormai tutti, però in particolare il sud-ovest sardo viva da tanto tempo una grave crisi, la grave crisi industriale che ha colpito il polo industriale di Portovesme oggi, ma una grave crisi dopo la chiusura delle miniere che ha costretto ad espatriare tante persone. Quindi le migrazioni dovute alla mancanza di lavoro in primis, e quindi il tema del lavoro. Tra l'altro il lavoro trova, come dire, la sua collocazione ideale come tema all'interno di quello che è stato poi il fulcro della direzione, appunto, mineraria, e quindi del luogo del lavoro per antonomasia, appunto la miniera di Serbario. A questo si aggiunge un centinaio di interviste realizzate sotto forma di storie di vita per documentare, attraverso la viva voce e le immagini naturalmente che accompagnano la voce dei protagonisti, di coloro che hanno vissuto dall'epopea mineraria, quindi dalla fine degli anni 30 fino ad arrivare agli anni 60 con la chiusura della maggior parte delle miniere, e poi anche la parte naturalmente rurale, che ha avuto comunque una sua importanza fondamentale. Quindi tante interviste fatte sì con minatori, ma anche con sindacalisti, con politici dell'epoca, con persone comuni, le prime maestre di alcuni dei paesi del territorio, o il postino, il primo fotografo che è riuscito a documentare in buona sostanza tutto quanto accadde in quegli anni, così tristi ma anche così importanti per il nostro territorio. Mm-hmm. Ecco Paolo, ci hai dato alcuni cenni sulla storia e anche sulla contemporaneità del sud-ovest sardo. Ci dicevi della crisi industriale, della chiusura delle miniere. Noi per esempio, come trasmissione di cinema, spesso e volentieri ci occupiamo di documentari, e diversi registi che abbiamo sentito si sono occupati proprio della questione della chiusura delle miniere in Sardegna. Dicevi anche del problema dell'emigrazione. Ecco, per i giovani oggi qual è la prospettiva sul territorio? Naturalmente non ti nascondo che sia un discorso estremamente difficile e delicato. Ogni anno si calcola che siano oltre, questi sono dati ufficiali, siano oltre 5.000 le persone che abbandonano il territorio, tutto il Sulcis Iglesiente e alcune zone limitrofe. Noi naturalmente non pretendiamo di essere come dire la panacea di questo problema che veramente da decenni affligge il Sulcis Iglesiente. In qualche misura però ci piacerebbe poter incuriosire diversi ragazzi che peraltro hanno la possibilità attraverso l'Università di Cagliari e del Sulcis Iglesiente di poter accedere a dei corsi che poi si ricollegano con il mondo del cinema, parte storia del cinema, anche altre situazioni. Ecco, in questo caso noi piacerebbe incuriosire i giovani con le attività che proporremo, ma soprattutto l'auspicio vero. All'inizio dell'intervista ho parlato di un primo step, quello di valorizzazione della memoria. Sì. Il secondo step sarà quello di cercare per quanto possibile di incentivare alla produzione sul territorio. Il terzo passaggio vorrebbe essere proprio quello di riuscire a creare una scuola permanente di cinematografia sociale che possa consentire a chi magari già ha dimestichezza, ma anche a chi vuole semplicemente cimentarsi con queste nuove professioni, la possibilità di imparare attraverso corsi di alta formazione, da cui anche la presenza nel protocollo d'intesa dell'Agenzia Regionale per il Lavoro, per far sì che, come dire, ci sia questo rinnovato interesse rispetto al nostro territorio, il che vorrebbe dire anche, speriamo, poterlo ricollegare ad un discorso turistico che vada oltre il semplice piacere balneare che ha coinvolto ormai tanta gente, ma che possa essere, come dire, un turismo culturale più legato all'archeologia industriale classica nel territorio, ma ripeto, anche alla possibilità di scoprire nuove sedi per nuove produzioni. Questo è il nostro auspicio. Senti Paolo, come sono strutturate queste tre giornate a Carbonia? Allora, domani, venerdì 18, che peraltro coincide con il 77° anniversario della nascita di Carbonia, ci sarà un primo intervento a scuola. Forse non l'ho sottolineato, ma la tradizione che il Centro Servizi Culturali di Carbonia vanta nei confronti delle scuole è una tradizione importante, non solo per il cinema prodotto con la scuola, ma anche per tutte quelle attività di formazione, sempre comunque legate all'uso degli audiovisivi e del cinema, che ci hanno consentito e ci consentono anche quest'anno di intervenire in occasione di giornate particolari, quelle che vengono, come dire, sottolineate nel calendario istituzionale. Per cui domani Davide Ferrario sarà presente presso una scuola media superiore di Carbonia, che è l'Istituto Beccaria, con un incontro per poter appunto incontrare i giovani e poter parlare del suo film La strada di Lesi. Mentre invece di pomeriggio alle 17.30 Sound Footage. Prima abbiamo parlato dell'importanza della memoria audiovisiva e di conservarla e di valorizzarla. Beh, il Sound Footage in fondo consente tutto ciò, e abbiamo chiesto a Marco Bertozzi, che è regista storico di cinema, di poter intervenire organizzando più che un incontro, una sorta vera di lezione a tutto tondo, parlando di cinema naturalmente, dei suoi libri, dei suoi film, della sua esperienza appunto legata al found footage. E poi la giornata di venerdì si conclude alle ore 21 con la proiezione della Zuppa del Demonio, e il pubblico del territorio potrà incontrare Davide Ferrari. Mm-hmm. Sabato naturalmente il momento per noi più importante, alle 10.30 si taglierà l'ideale nastro che sancirà l'avvio del progetto Fabbrica del Cinema, che prevede, oltre che naturalmente la riscoperta di questo edificio storico e così importante per la città, anche di naturalmente tutte le nuove apparecchiature che siamo riusciti a realizzare anche per poter sfruttare al meglio l'archivio attraverso modalità assolutamente interattive e indipendenti. Ci sarà l'inaugurazione di due mostre, una dedicata alle macchine da cinema. Avremo la possibilità di esporre purtroppo una piccola selezione, saranno circa 60 le macchine perfettamente efficienti che metteremo in mostra, di una collezione di oltre 300 pezzi che ci è stata donata dai signori Oreste e Leandro Coni, e contemporaneamente inaugureremo una mostra di un artista locale, si chiama Virginia Siddi, estremamente interessante perché sfrutta come dire la pietra locale da cui nasce il nome stesso della città di Carbonia, ovvero il carbone. Dal profondo dell'anima, il suo titolo è una cosa particolarissima. Nel pomeriggio un incontro particolare con il direttore della fotografia Franco Lecca, accompagnato dal giornalista Sergio Naizza, per andare alla scoperta di un film comunque importante per il territorio del 1987, realizzato da due giovani registi, si chiama Noi Totus, cioè Tutti Noi, ed era proprio ambientato nel Sulcis per analizzare quella che era appunto la situazione economico, sociale, occupazionale di quell'epoca. A concludere la serata di sabato, Arina Marazzi, altra regista assolutamente importante, legata all'uso e riuso dei materiali del fan footage, con il film Un'ora sola ti vorrei. La memoria, ecco, questo della memoria è un po' il filo conduttore, che ritroveremo anche nella giornata conclusiva di domenica, che apriremo di mattina con un World Café, un'iniziativa singolare. Abbiamo chiesto di partecipare ad alcuni rappresentanti del territorio per poter discutere, ecco, di come potrebbe crescere il Sulcis Iglesiente anche alla luce della presenza di un nuovo polo culturale come la Fabbrica del Cinema. Mentre invece concluderemo la serata con alle 18 un incontro con il regista Giuseppe Caso, e il suo ultimo film che ha presentato al Cinema Ambiente di Torino, ovvero Il Presagio del Ragno. Un incontro particolare con i tonarotti e coloro che ancora operano nelle tonare di Carloforte. A conclusione del tutto, quello che, come dire, veramente rappresenta la quadratura del cerchio, il film si chiama Isola da filmare ed è un montaggio di immagini inedite trovate a 16 mm di quello che è considerato forse il più famoso documentarista sardo, cioè Fiorenzo Serra. Questi materiali sono stati consegnati nelle mani sapienti del regista Marco Antonio Pani, che ha creato questo montaggio che è stato musicato con partiture originali da Paolo Fresu. Questa è l'ultima proiezione che conclude, come dire, questa tre giorni che sancisce il primo step della Fabbrica del Cinema, a cui speriamo possano seguire gli altri come da nostro cronoprogramma. Paolo, sei stato chiarissimo. In chiusura ti chiedo i riferimenti internet per la programmazione. Assolutamente, allora è possibile su Facebook la pagina ex di Memoria il Movimento Fabbrica del Cinema, potete trovare tutte le informazioni presso il nostro sito www.umanitaria.ci.it, naturalmente sul sito del Comune di Carbonia, insomma il battage è stato importante, quindi sì, è possibile trovarci. Bene, Paolo, un abbraccio e alla prossima. Federico, ti ringrazio tantissimo, ringrazio tutti gli ascoltatori per l'attenzione, mi chiedo scusa se mi sono dilungato e mi permetto, anche se con un certo anticipo, di augurare a tutti buone feste. Grazie, ciao Paolo, un abbraccio. Grazie a te, a presto, grande, ciao ciao. Ciao. Paolo Serra, direttore del CSC Carbonia Iglesias, società umanitaria, su XD, Memoria in Movimento, la Fabbrica del Cinema, a Carbonia dal 18 al 20 dicembre. Questo è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema tutti i giovedì dalle 14 alle 15. Tutte le informazioni le trovate sul sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, anche sulla pagina Facebook di Visionari. In collegamento con Daniele Segre, direttore del percorso multimediale L'Aquila, il mio futuro è qui, all'Aquila domani 18 dicembre. Daniele, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno a tutti, grazie della vostra attenzione. Tra l'altro ci siamo occupati adesso di un'iniziativa, la Fabbrica del Cinema a Carbonia, che interessa tutto il sud-ovest sardo. Passiamo a parlare di un altro territorio in sofferenza, quello dell'Aquila. Daniele, raccontaci un po' questo progetto. Il progetto rientra nell'attività didattica della sede Abruzzo del Centro Sperimentale di Cinematografia, di cui io sono il direttore didattico, ed è diciamo un impegno di lavoro che va nella direzione di un rapporto sempre più proficuo della nostra sede con il territorio aquilano e con la regione Abruzzo. Diversamente dall'anno scorso, che ci siamo occupati con l'installazione L'Aquila Frammenti di Memoria, quest'anno ci siamo occupati, attraverso una ricerca molto approfondita, della condizione giovanile aquilana, attraverso, diciamo, reportage scritti, fotografici, radiofonici e video, con anche il supporto di una ricerca sociologica condotta dal sociologo Stefano Laffi. Senti, la curiosità riguarda innanzitutto l'emorragia di popolazione rispetto al territorio e l'altra le prospettive dei giovani. Che ci dici in proposito rispetto a al territorio di abruzzese? Ma sicuramente, come tu hai accennato, esiste una emorragia di molte persone che partono e vanno via dall'Aquila. D'altra parte ci sono, come nel nostro caso che abbiamo analizzato, anche giovani che hanno deciso di restare all'Aquila. In effetti noi li abbiamo definiti la generazione del riscatto, che con grande coraggio hanno intenzione di rimanere, lavorare e impegnarsi per costruire il loro futuro e per stimolare anche la città, che ovviamente per colpa del terremoto ha avuto un grave trauma. Senti, la giornata del 18 di domani, venerdì 18 dicembre, cosa prevede? Ma prevede innanzitutto la presenza dei vertici del centro sperimentale, dal presidente Stefano Rulli alla preside Caterina D'Amico al direttore generale Marcello Foti. Ci saremo noi tutti, gli allievi, Stefano Laffi, sottoscritto, e presenteremo i risultati del lavoro che nei fatti si esprime attraverso una grande mostra fotografica che è esposta nella nostra sede, e poi con la presentazione non tutta di alcuni dei lavori radiofonici e video realizzati dagli allievi, con in più la presentazione di un nostro catalogo che è omnicomprensivo dei reportage scritti e dell'intera ricerca sociologica. Senti, da tutte queste interviste realizzate con i giovani della zona, cosa emerge, Daniele, in particolare? Ma emerge, come si diceva poc'anzi, intanto un'insofferenza rispetto a una situazione abbastanza delicata che vede la città ancora con grossi problemi a distanza di 6 anni dal terremoto, e quindi con un disagio. Dall'altra parte invece con la grinta e la voglia di costruire il proprio futuro qui nella stessa città dell'Aquila, malgrado i problemi che ci sono. È una situazione in movimento, ovviamente, con alcune emblematicità, e solamente poi chi vivrà potrà vedere se questa grande scommessa che i nostri protagonisti stanno facendo avrà un buon esito. Diciamo, noi parliamo di giovani dai 15 ai 30 anni, di giovani che lavorano, che studiano, che fanno i musicisti, che cercano di esprimersi in generale a livello artistico e cercano di riattivare, diciamo, quella forte presenza di vitalità necessaria in qualunque città del mondo, in particolare in città come l'Aquila, che ha bisogno, come le Flebo per le persone malate, di vitamine e di sostanze che rigenerano la voglia di vivere e di stare insieme, a lavorare insieme per costruire il futuro. Daniele, ci dai tutti i riferimenti internet per il programma e in generale per informarsi sul progetto? Ma diciamo che bisognerebbe collegarsi con il sito della sede del centro sperimentale, sede Abruzzo. Sì. I riferimenti sono quelli della sede del sito ufficiale del centro sperimentale CSC, centro di cinematografia.it, e poi si va al sito della sede Abruzzo. Bene. Daniele, io ti ringrazio, un abbraccio e alla prossima. No, grazie per la vostra attenzione e buon lavoro a tutti. Ciao, a presto. Daniele Segre, direttore del percorso multimediale L'Aquila, il mio futuro è qui, domani all'Aquila, domani venerdì 18 dicembre. Marco Santarelli, regista del documentario Dus Tour, Costituzione. Ci sei, Marco? Ben ritrovato, sì, a Visionari. Eccoci qui. Allora, anche un importante riconoscimento festivaliero. Raccontaci un po' di questo progetto, di questo documentario, Marco. Sì, il progetto Dus Tour nasce in realtà nel 2011, quando avevo già girato un documentario nel carcere d'Ozza di Bologna. Sì. L'anno scorso sono tornato ad Ozza per filmare degli incontri sulla Costituzione italiana, organizzati da volontari e insegnanti dell'area pedagogica del carcere, e incontri che hanno avuto come protagonisti detenuti musulmani. Da questi incontri poi alla fine è uscito un documentario, Dus Tour, che in realtà è un viaggio non solo dentro il carcere, dentro le storie di molti ragazzi che partecipano al corso, ma anche un viaggio fuori dal carcere, perché seguo anche la vita di un ex detenuto marocchino che avevo conosciuto nel 2011 quando era dentro, e adesso è fuori, e ho raccontato un po' la sua vita fuori dal carcere. E le due storie vanno in parallelo per un gran parte del documentario e si incontrano alla fine, quando poi farò rientrare l'ex detenuto in carcere per scrivere insieme ai ragazzi che hanno partecipato al corso una sorta di Dus Tour ideale, che Dus Tour in arabo significa costituzione, quindi una piccola carta di diritti e doveri ideali fatta dai detenuti che hanno partecipato al corso. Questo in breve è la storia del documentario, una storia, ti ripeto, che parte da lontano, perché molti dei personaggi che si vedono nel film li avevo già conosciuti nel 2011, e quando poi mi è capitata, quando sono venuto a conoscenza di questo progetto in carcere, non ho esitato a comunque tornare dentro per filmarlo, perché mi sembrava una bella occasione anche, no, per documentare e filmare un modo originale e forte di far dialogare due mondi così apparentemente distanti, no? Da una parte i valori che sono della nostra cultura, e dall'altra i valori poi dell'Islam, di quelli che sono i principi un po' della Sharia e tutto quello un po' che regola il mondo arabo. Quindi è un viaggio in cui si mettono a confronto anche tanti articoli, non solo della nostra Costituzione, ma anche quelli che sono gli articoli di alcune costituzioni arabe, ad esempio quella tunisina, che è la più giovane, che è del 2014. E su questi articoli poi di volta in volta, incontro dopo incontro, ci sono dibattiti, confronti, scontri, perché chiaramente poi partiamo da, insomma, sono due mondi che fanno fatica a incontrarsi. Però io penso che la cosa bella di Dus Tour, la cosa forte, è quello che è stato un tentativo di spingere verso un confronto, ecco, un dialogo che da cui non si può scappare, tantomeno oggi. Ecco, proprio la curiosità è proprio relativa a questo che mi dicevi adesso, Marco, e com'è stata l'interazione tra chi portava avanti questi corsi e chi stava dentro, come sia umanamente che culturalmente, come è stata questa dialettica? Beh, guarda, è stata forte, intensa, però a partire dal presupposto che le persone che hanno lavorato, gli insegnanti e i volontari che hanno lavorato sul corso, conoscono i ragazzi da tanti anni, quindi non è, diciamo, stato un lavoro improvvisato. Okay. È risultato di tanti anni di confronto, scontro, incontro con questi, ti ricordo che anche la Tossa è il carcere col maggior numero di era fino a pochi anni fa il carcere con il maggior numero di detenuti stranieri in Italia, quindi sono anni che si lavora sul tema dell'integrazione e del confronto. Mm-hmm. Chiaramente su alcuni articoli c'è stata una discussione accesa, soprattutto quello sulla libertà relativa alla libertà religiosa. Però devo dirti che le cose, cioè, fino a quando uno non ha la forza e il coraggio di confrontarsi, sembra tutto difficile. Poi nel momento in cui parte il confronto, uno trova la forza anche per dire quello che pensa, le cose poi cambiano, insomma, si innescano si mescano cose positive, cose che fanno bene poi al dialogo, all'incontro. Ecco, questo è per me, per quanto riguarda la mia partecipazione. Chiaramente all'inizio non è stato facile, anche se poi, ti ripeto, avevo già girato la tosta, conoscevo quell'ambiente, conoscevo alcuni dei detenuti che partecipavano al corso, però poi alla fine, insomma. Poi anche il fatto che non si svolgeva in una classica, questi incontri non si sono svolti in una classica aula, ma si svolgevano nella biblioteca dell'area pedagogica, quindi tutti eravamo intorno a un tavolo, anch'io in qualche modo ero intorno a questo tavolo, su cui poi si discuteva e si accendevano le discussioni, quindi c'era anche un'intimità, no, che penso di essere riuscito a cogliere e a restituire nel documentario. Ecco, quindi insomma il luogo, anche a volte quando si gira, è anche importante, lo spazio dove si filmano certe situazioni. Chiaramente girarlo in questa biblioteca, avendo insegnante, volontari e ospiti, anche perché di volta in volta in carcere venivano invitati ospiti diversi e detenuti, no? Non uno di fronte all'altro, ma uno accanto all'altro, sì, io penso che abbia anche favorito cioè il dialogo, abbia favorito la messa in circolo anche di idee, valori. Questo insomma. Senti, un'altra curiosità relativa ai principi e agli articoli più sorprendenti, magari, e più forti di questa ideale e dustur costituzione. Beh, guarda, la cosa su cui poi, grazie anche al contributo di Samad, no? Dell'ex detenuto che ho fatto rientrare per partecipare a questa scrittura della Costituzione, chiaramente poi il punto, cioè da una parte il lavoro ho avvertito come una priorità, ma la cosa che sentono tutti come importante, che è stata in qualche modo ribadita anche in questa piccola carta, è quello dell'istruzione. Sì. Il fatto che certe cose, certi problemi, certe difficoltà, certi limiti si seguono, si superano e si affrontano conoscendo soprattutto l'altro e avendo la forza, insomma, di mettersi in discussione. Ecco, quindi l'istruzione sicuramente è il valore che è riconosciuto da tutti come il più importante. Quindi c'è una battuta, sì, anche molto bella, insomma, che puoi avere tutti i soldi che vuoi, ma se non sai, se non conosci, non sei molto diverso da una bestia. Questa è una delle diciamo cose più forti, che poi uno dei concetti più forti che sono emersi dal documentario, insomma, tante altre cose. Quindi questa è l'importanza di conoscere prima di fare una scelta, e prima di dire qualcosa, ecco, prima, sì, di questo. Sì. Quindi la sapienza, che in maniera più estesa riguarda anche la cultura, mettiamola così. Sì, quello assolutamente, cioè quello è sentito molto come un valore fondamentale. Senti, Marco, dustur, Costituzione, che ne sappiamo in proposito rispetto al distribuzione, passaggi televisivi, sì, uscita in sala? Sì, allora adesso... dopo essere stato a Torino, al Festival di Torino, verrà presentato in anteprima internazionale a Parigi, al Festival del Cinema d'Urelle, nel concorso internazionale, e lo presenteremo a Roma a gennaio alla Casa del Cinema, e inizieremo un piccolo tour in Italia, poi la speranza poi di uscire anche in qualche sala. È distribuito dall'Istituto Luce Cinecittà e insomma speriamo che vada bene, ecco, che ci sia la possibilità di farlo circolare, di farlo vedere e di confrontarsi soprattutto. Bene, allora Marco, un abbraccio, ci sentiamo presto. Grazie a voi, ciao. Ciao, ciao. Marco Santarelli, regista del documentario Dustur, Costituzione. Alessandro Giacobbe di Academy 2 sul film Francofonia o Francofonia, in uscita in sala oggi giovedì 17 dicembre. Benvenuto, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa, Alessandro. Grazie mille, un saluto a te e a tutti i nostri radioascoltatori. Allora, un film di Sokurov, un'importante uscita, un'importante firma anche per chi ci ascolta. Raccontiamo di cosa si tratta, Alessandro. Ma certamente un'uscita per noi è diventata una sfida nella settimana dei blockbuster americani, e uscire con un film russo del grande maestro Sokurov è un po' un'uscita in controtendenza. E comunque Francofonia è stato presentato all'ultima mostra del cinema di Venezia e straordinariamente aveva raccolto i consensi sia del pubblico che della critica, e questo ci aveva in qualche modo convinto che l'operazione di uscita in un momento come quello delle festività potesse essere tentata, anche se appunto molto spesso uscire a Natale in controtendenza può essere un azzardo, ma siamo convinti che questo film sia talmente affascinante che il pubblico possa senz'altro apprezzarlo. Mm-hmm. Beh, innanzitutto, parlando del titolo, Francofonia ovviamente richiama la Francia, e la Francia in questo momento ovviamente rappresenta un po' il baluardo dell'Europa tutta per tutto quello che è successo purtroppo recentemente, ed è quasi in fase di preveggenza quanto il regista Sokurov ci vuole proporre, quindi una Francia avamposto della civiltà occidentale, una Francia dove soprattutto il grande protagonista è il Louvre, il museo del Louvre, e una delle prime domande del regista nel film è: cosa sarebbe la Francia senza il Louvre, cosa sarebbe la Russia senza l'Ermitage, e in generale cosa sarebbe l'umanità senza i suoi musei? Sì, guarda, il parallelo iniziale mi sembra molto interessante, relativo anche al viaggio che fa l'amico di Sokurov, che è il vero Sokurov che vediamo nelle prime scene al computer, sì, in collegamento Skype, la cultura come fardello, da una parte, e dall'altra una comunità, in questo caso quella francese, che si tiene gelosamente, custodisce gelosamente il proprio patrimonio culturale e artistico. Sì, diciamo che come hai anticipato giustamente tu, il film ha praticamente tre piani diversi di racconto. Da un lato, nel presente, lo stesso regista, che è magistralmente doppiato da Umberto Orsini nel film, dialoga con questo capitano di una nave in tempesta che trasporta nei container delle preziose opere d'arte. Poi abbiamo il piano narrativo storico di quando Parigi, occupata da Hitler e dai nazisti, vede questa strana amicizia sorgere per appunto amore comune dell'arte tra il direttore del Museo del Louvre, l'allora Jacques Jaujard, e il conte von Metternich, che era responsabile per l'esercito nazista della salvaguardia del patrimonio culturale dei paesi occupati. Proprio da questo amore comune per la cultura nasce questo sodalizio che consentirà a Parigi di preservare i suoi tesori, che in parte erano stati trasferiti dal Louvre nei castelli sparsi per la Francia, e in qualche modo appunto poter assicurare ai posteri la salvezza di queste opere d'arte. E infine poi abbiamo l'ultimo piano narrativo del film, dove proprio nelle sale del Louvre si aggirano due fantasmi. Uno è il fantasma della Marianna, il simbolo appunto della Francia rivoluzionaria, che ripete lo slogan libertà, fraternità, uguaglianza, e l'altro quello di Napoleone, che si considera l'artefice del tesoro del Louvre, in quanto con le sue campagne in giro per l'Europa ha fatto incetta di opere appunto d'arte, di sculture e dipinti, che poi ha voluto raccogliere nel Louvre. Quindi senz'altro un film che ha diversi piani di lettura, ma accomunati appunto da questa sottolineatura di quello che l'arte può significare per l'umanità e della salvaguardia di quello che appunto delle opere d'arte, che è una dei nostri, dovrebbe essere l'obiettivo principale, soprattutto oggi, che durante queste giornate che sappiamo come questa sia diventata la minaccia dell'arte, della distruzione delle opere d'arte, una minaccia concreta proprio, visti gli avvenimenti recenti. Sì. La simbologia mi sembra cristallina del mare in tempesta, che è questo periodo, l'attualità di crisi in cui il patrimonio artistico e culturale è il primo a correre i rischi di cancellazione, ma anche di passaggio in secondo piano, quando invece è il reale patrimonio di una comunità, insomma. Certamente, ci sono alcune frasi che il regista ci lascia come messaggio nel film, una fra tutte dice: cosa saremmo noi, cosa sarebbe l'umanità, cosa sarebbe la cultura europea oggi se non avessimo potuto guardare negli occhi dei nostri antenati attraverso i ritratti e i dipinti magnifici che sono custoditi nei nostri musei. Sì. Alessandro, da oggi nelle sale che tipo di distribuzione avrà Francofonia? Francofonia parte con una distribuzione molto selezionata, siamo nelle principali città italiane, nei cinema ovviamente molto attenti a una programmazione di qualità, e nella speranza che poi il film, come dicevo, faccia breccia nel cuore degli spettatori e possa poi essere allargato. Attualmente siamo una quindicina di copie in tutta Italia, ma come ripeto, cinema molto selezionati che preparano attentamente questo tipo di prodotto. Io ti ringrazio, a presto, un abbraccio. Grazie mille a tutti voi, auguri. Auguri, ciao Alessandro. Grazie. Alessandro Giacobbe di Academy 2 sul film Francofonia, in uscita in sala oggi giovedì 17 dicembre. Tra l'altro al film abbiamo dedicato anche l'immagine di copertina della trasmissione di questa settimana. Ed eccoci con Claudio Cadei di Distribuzioni Dal Basso per parlarci delle novità di dicembre. In genere sentiamo il nostro Paco, Andrea Paco Mariani, e quest'oggi una novità, quindi una voce nuova per queste frequenze. Benvenuto Claudio. Grazie mille, grazie per l'ospitalità e ciao a tutti. Sì, in effetti siamo un'equipe abbastanza nutrita di redattori, appunto, che si occupano un po' della selezione del materiale e del fatto di, appunto, intercettare nuove opere creative che rientrano all'interno del nostro catalogo Distribuzioni Dal Basso. Sì. E siccome adesso il nostro buon Paco è impegnato in una realizzazione di video, visto che siamo anche una video factory e non facciamo soltanto distribuzione, ma anzi il nostro progetto distributivo nasce un po' proprio dalla nostra esperienza di realizzatori di video, quindi oggi ci sono io a parlare delle novità di dicembre. Il catalogo di Distribuzioni Dal Basso si è ampliato consistentemente, perché quest'anno, appunto, se chi è iscritto alla newsletter del nostro sito distribuzionedalbasso.com avrà visto che ci sono, appunto, 10 titoli che entrano nel nostro catalogo. E si tratta di 3 film del 2015, quindi appena realizzati, e altri invece realizzati precedentemente. Nella fattispecie sono quelli della Sunset Film, che è un gruppo di Forlì, della zona di Forlì, che dopo le piacevoli esperienze, insomma, di distribuzione, con noi ha deciso di inserire nel catalogo anche i film, e fortunatamente i film fatti in precedenza, e fortunatamente, siccome il documentario parla come genere anche non invecchia, perché comunque rappresenta anche delle storie di qualche anno fa, ma con ancora assolutamente interesse rispetto alle vicende attuali, noi facciamo anche un po' questa operazione di archiviazione anche, insomma, di storia di inizierei dai 3 appunto più recenti, se sei d'accordo. Come no, certo. E abbiamo Pazestan, che è un film di Ivan Grozny Compasso, che è un film sul La Rojava è un film che rappresenta un po' la situazione attuale. È stato girato fra il 2014 e gli inizi del 2015, quindi un po' prima che ci fosse tutto questo accalcarsi di vari interventi militari nel Kurdistan. E è stato girato fra il Kurdistan iracheno e Rojava, appunto, quindi in Siria, ed è chiaramente importantissimo come documentazione di una situazione attuale che è chiaramente al centro del mondo da un certo punto di vista, ma contiene tante storie appunto dimenticate o di cui appunto si sa poco, come tutte quelle che riguardano la resistenza curda e il combattimento di curdi nei confronti dell'ISIS, che la si chiama Daesh. E è molto interessante questo documento perché presenta appunto uno sviluppo narrativo quasi da road movie, da film di viaggio, perché appunto è un viaggio fatto davvero con la telecamera in spalla attraverso le situazioni dal 2014 al 2015, quindi appunto con varie segue quello che un po' succede in quei mesi attraverso quello spazio, e ci dà questa geografia di un territorio così fluido dal punto di vista di ciò che accade, ma così pieno di contraddizioni dal punto di vista delle frontiere che pesano tantissimo in quella zona. Pensiamo ad esempio a quella turca da cui che è una frontiera diversamente permeabile in qualche modo e che causa un ulteriore problema alle popolazioni che vi vivono, diciamo, e che si devono muovere all'interno di quell'area. E infatti il sottotitolo del film, adesso vado a recuperarlo, "I confini sono i limiti dei popoli", si riferisce anche proprio molto interessante a questo aspetto, sì, insomma, sì, questo aspetto, sì, della rappresentazione di quella zona. Chiaramente appunto le storie che emergono sono storie molto forti, sono storie di gente che si muove per necessità, si muove per invece andare incontro al combattimento e quindi ha delle storie di resistenza molto molto forti, e il regista, diciamo, che è capace di intercettare un po' tutte queste varie voci di quella realtà assolutamente problematica e interessante. Sì, sì, sì, sì. Altro film del catalogo invece si chiama Meno male è lunedì, e invece è un film per noi molto vicino perché è ambientato a Bologna. È un film di Filippo Vendemmiati. Sì, sì, ne abbiamo ospitato anche Filippo per parlarne quando girava per Festival il documentario, sì. Ah, perfetto, quindi ne avrà parlato lui, sì, assolutamente, sì, sì, sì. Meglio di me, non mi soffermo tanto, se non per dire, la storia di questa esperienza al carcere d'Ozza di Bologna, dove viene allestita una officina metalmeccanica dove gli ex operai in pensione vanno a lavorare e a insegnare il lavoro a dei detenuti che in orari stabiliti, perché sono assunti. Questa è una cosa anche significativa, non è un esperimento finto, anche se appunto c'è chiaramente un grado di assurdità della vicenda, visto anche la location. Un po' diversa appunto da quello che è il luogo della fabbrica. È un film che mette, mi dico soltanto questo, mi piacerebbe dire, che mette veramente in scena diversi temi interessanti della vita e del lavoro. Infatti nel trailer si dice un film di vita e di viti nel senso metalmeccanico. Le vite sono quelle sia dei detenuti, quindi della loro modo di vivere quell'esperienza e la privazione della libertà, chiaramente, e allo stesso tempo è anche sono anche le storie degli ex lavoratori, quindi lavoratori pensionati, che riscoprono in questo modo c'è un recupero interessante del valore del lavoro, chiaramente c'è tutta una riflessione anche su questo tema e questa possibilità, grazie a questa esperienza, di riflettere sulla loro storia lavorativa e quindi sull'utilità anche sociale del lavoro come momento, come parte proprio della loro storia. Sì. Altro film che è in catalogo questo mese è Lina Mangiacapre, artista del femminismo, di Nadia Pizzuti. Anche Nadia l'abbiamo sentita proprio recentemente per questo documentario. Benissimo, avete praticamente già tolto tutte le cose che io posso raccontarvi, quindi è uno spaccato degli anni, dagli anni, fino agli anni 60 fino agli anni 90, con di questo personaggio interessantissimo, Lina Mangiacapre, che è appunto un artista che ha fatto davvero un po' di tutto, pittrice, realizzatrice di film, scrittrice, musicista, e appunto segue uno spaccato molto interessante proprio su come si affermano le voci di tante donne appunto nell'ambiente napoletano di quegli anni. Senz'altro Nadia ve ne avrà parlato con maggiore precisione, sì, di quello che posso anche fare io. Tra l'altro, ho realizzato in crowdfunding questo lavoro. Sì, infatti la testimonianza comunque è un tema anche su cui è interessante lavorare in generale. Sto notando, insomma, che c'è i film legati alla memoria, la memoria anche recente, la memoria non in senso di cose molto lontane, ma proprio al recupero di pezzi della nostra storia, ultimamente fanno parte di iniziative di crowdfunding, e credo che sia una cosa molto bella, perché si crea un po' un'idea di costruzione della propria storia in senso comune, no? E quindi assolutamente credo che sia una bella soluzione per film che hanno comunque appunto un interesse collettivo come questo. Sì. Poi andiamo appunto a questo scrigno di film che ci ha passato interamente la Sunset Film di Forlì, e per magari un po' comodità vi raggruppo un po' tematicamente, nel senso che c'è una buona parte di questi sette film che si hanno come tematica in senso vario la migrazione, a partire da Aisha è tornata. Si tratta di un film che racconta delle migrazioni di ritorno, quindi delle storie di donne che finiscono il proprio percorso migratorio ritornando al proprio paese d'origine, che in questo caso è il Marocco. Sono appunto diverse storie di donne, di problemi connessi anche a quello che è il ritorno, e che illumina un po' le loro traiettorie di vita, e anche la gravità, la difficoltà del fallimento di un percorso migratorio che spesso viene anche causato da alcune condizioni strutturanti, ad esempio la legislazione italiana sul permesso di soggiorno, chiaramente, che costringe a dei ritorni anche collocati in alcuni momenti della traiettoria di vita di una persona in cui magari sta affermando la propria volontà di rimanere invece in un altro paese. Sono storie diverse, invece sono anche storie di ritorni consapevoli, quindi è molto bello appunto vedere questo tipo di confronto e di vedere la complessità e la varietà del mondo che ruota attraverso i fenomeni migratori, che spesso invece chiaramente viene molto stigmatizzata. Un documentario su più o meno lo stesso tema, con un punto di vista molto diverso, è sempre della Sunset Cop, della Sunset Film, Dalle onde del mondo, che parla di un esperimento di teatro fatto in Romagna con dei giovani rifugiati fuggiti dalla Libia. Questo è un film del 2012-2013, progetto appunto che permette di mettere in atto una certa possibilità di raccontare la propria storia in maniera varia, e è un progetto che finisce nel 2013, questo progetto di teatro, e quindi lascia anche un po' tutto progetto di accoglienza, scusate, e quindi lascia appunto tutto in sospeso questo discorso e causa ai richiedenti rifugio politico, asilo politico, chiaramente un altro tipo di doversi reinventare ancora le proprie vite, quindi interessante per riflettere proprio sul tema della continua necessità che viene imposta a diverse persone che si trovano all'interno di un meccanismo come quello della richiesta di rifugio politico, di dover reinventare continuamente le proprie esistenze, le proprie traiettorie. Abbiamo un altro film che si chiama I fiori alla finestra, questo invece appunto totalmente diverso, non parla in senso stretto di migrazioni, ma parla di quello che sono le connessioni all'interno di questo mondo sempre più iperconnesso, in cui è difficile spostarsi ma le connessioni sono in continua moltiplicazione. È la storia di tre persone che dal Camerun, tramite un sito di incontri amorosi oppure di altri sistemi appunto informatici, webcam eccetera, cercano di entrare in contatto con diverse persone appunto in Europa e di impostare attraverso quel tipo di meccanismo un percorso appunto di spostamento. È qualcosa, è un fenomeno che tra l'altro chiaramente non è molto conosciuto, ma è presente, in crescita, e racconta un po' dell'immaginario anche, no? Della lontananza, del fatto che appunto uno possa immaginare anche questa connessione in maniera così astratta, diciamo, virtuale, per poi riproporla all'interno della propria vita. Quindi rappresenta questo fenomeno interessante. Sì. Sempre lo stesso autore, mentre i primi due film sono stati diretti da Lisa Tormena con altri registi. Questi due film di cui sto parlando adesso, Fiori alla finestra e Ho fatto il mio coraggio, sono realizzati da Giovanni Princigalli, che racconta in Ho fatto il mio coraggio invece un'altra vicenda sempre legata appunto a migrazioni, in questo caso migrazioni di italiani. È un lavoro sugli italiani di Montreal in Canada, e di come appunto entrano in relazioni, le loro storie nell'Italia degli anni 50 e 60, quindi è tutto un lavoro anche qui sul recupero di memorie legate alle migrazioni, ma non solo, anche alle lotte sindacali, a tutte appunto le vite che giravano attorno a questo orizzonte che era nell'Italia degli anni 50 e 60 è appunto separato per tante famiglie fra l'Italia e un altro posto che era per noi chiaramente per gli italiani appunto mete di migrazione. Gli ultimi tre film invece parlano di in senso vario della tematica del un po' di analisi del potere, direi, perché Libertà in esilio è un film fatto in collaborazione con la Maison des Journalistes a Parigi, dove appunto vengono raccolte alcune voci di alcuni giornalisti che sono stati costretti a fuggire da situazioni in cui è un film sulla libertà di stampa, insomma, su quello che è sulla negazione della libertà di informazione e di stampa, perché appunto racconta la vicenda di diversi giornalisti che fuggono da delle situazioni in cui questa libertà è negata. Poi abbiamo il giorno in cui la notte è scesa due volte, stavolta appunto si parla di informazioni in maniera diversa, cioè di quanto possa essere fare male e essere strumentalizzata l'informazione a partire da un caso locale, un ragazzo che è trovato con dell'hashish a seguito di della strumentalizzazione da parte di conferenze stampa indetta dai carabinieri e giornalisti, quindi giornalisti che raccolgono questo tipo di informazione, questo ragazzo si toglie la vita, e da lì appunto è tutta grazie a questa storia si parla di questo tema, di quanto appunto può essere anche letale un certo uso stavolta da parte di una serie di poteri distribuiti, l'aspetto appunto del mediatico, l'aspetto dell'informazione. E ultimo film di cui vi parlo brevissimamente, come vedete sono costretto a fare dei riassunti molto molto veloci, poi appunto colgo l'occasione per invitarvi sia a visitare il portale di Istituzioni dal Basso, in cui potete trovare sia i trailer che tutta anche le sinossi eccetera, e magari anche iscrivervi alla newsletter, così una volta al mese vi arriva una informazione di tutto quello che esce appunto sul nostro portale, e chiaramente anche a seguire questa trasmissione che ci ospita. Claudio, io ti ringrazio. La prigione invisibile, per finire appunto, sì. È un film che approfondisce la questione delle sette in Italia, quindi la manipolazione da parte appunto di questi casi, quindi i bisogni psicologici che stanno dietro al fatto di un fenomeno appunto che ha avuto una grande importanza negli anni passati, a partire sempre da un caso locale, Emiliano Romagnolo. Bene, direi che con questo io ho finito un po' questa rassegna. E un abbraccio e alla prossima, Claudio. Va bene, grazie mille per l'ospitalità e a presto. Ciao, grazie. Ciao. Claudio Cadei di Distribuzioni dal Basso sulle novità di dicembre. Ora l'ultimo intervento, che è in forma registrata, lo abbiamo realizzato martedì, Jacopo Chessa del Centro Nazionale Cortometraggio, per parlarci dello short film Dale in occasione della giornata mondiale del cortometraggio. Il 21 dicembre sarà in 22 città italiane. Jacopo, ben ritrovato su queste frequenze. Ciao Federico, come va? Tutto bene. Allora, mi sembra una bella impresa, in 22 città una giornata del cortometraggio. Se non sbaglio sono 7 i titoli, alcuni dei quali sono anteprime, più 6 film cortometraggi per l'infanzia. Sì, e poi il programma italiano, e non quello per l'infanzia, perché quello per l'infanzia è un programma europeo. Quello italiano andrà in 19 città straniere, quindi in giro per il mondo, in tutti i 5 continenti, sottolineo. Allora, ci racconti com'è nata questa iniziativa? Allora, nel 2011 il CNCE, il Centro Nazionale della Cinematografia francese, ha lanciato lo jour le plus court, il giorno più corto, cioè il 21 dicembre è il giorno dedicato ai cortometraggi, in cui diventano i protagonisti, soprattutto in sala. E la cosa ha avuto successo. In Francia c'è una cultura di diffusione di cortometraggi forte, c'è la Grand Court-Métrage, insomma sono tanti motivi, e si è diffusa anche all'estero negli anni successivi. Adesso è il terzo anno che la facciamo noi, ma si parla di una cinquantina di paesi in giro per il mondo che festeggiano il giorno più corto dell'anno. Mm-hmm. Questa edizione del giorno più corto abbiamo deciso di esportarlo, di fare questo programma di corti, siccome i corti italiani alla fine girano abbastanza poco all'estero, se non sporadicamente, comunque sono meno forti degli altri cortometraggi, e portiamo questo programma in una ventina di città in giro per il mondo. Questo è avuto molto successo perché gli istituti italiani di cultura ci hanno subito chiesto, e quindi per questo sarò all'estero a presentarlo a Parigi. Mm-hmm. Allora, diverso genere, diversa durata, quali sono stati i criteri di scelta dei titoli, Jacopo? Allora, guarda, sostanzialmente tre. Il primo è perché doveva essere un programma generalista per un pubblico ampio e non toccare, diciamo, temi delicati, mostrare immagini come dire che potessero turbare il pubblico, perché ovviamente va in città come Addis Abeba, che ne so, va in luoghi in cui potrebbero esserci problemi, oppure in Cina, va a Shanghai, a Pechino, per cui c'è tutta la questione della censura. Dovevamo ovviamente aggirare tutto questo, tutte queste problematiche e offrire un programma, come dire, grande pubblico. Gli altri due criteri sono mettere dei corti che hanno avuto successo, che sono, rappresentano bene il fermento del cortometraggio italiano. Cito per esempio Eternit di Giovanni Aloi, che era candidato agli EFE, che era in concorso a Orizzonti nell'ultimo Festival di Venezia, e anche qualche corto un po' più outsider, tra virgolette, e non cito proprio i titoli, se no sembra offensivo, però in realtà qualche corto, ma basta scorrere la lista dei titoli per capire che ce ne sono che magari non avrebbero avuto una circolazione così forte se non fossero stati inseriti in un programma simile. E mi piaceva l'idea, una cosa che faccio sempre quando faccio i programmi di corti, mettere qualcuno non conosciuto che magari viene scoperto dal pubblico, che nel piccolo di quel che può fare un programma di cortometraggio. Quali sono state le realtà tra questi 22 luoghi che hanno aderito all'iniziativa? Guarda, per lo più spazi associativi, cineclub e anche alcune sale e anche istituzioni. A Roma ci sarà proprio un evento su cortometraggi, in realtà abbiamo messo anche film a episodi italiani degli anni 60 e 70 e partiranno il venerdì sera e finiranno la domenica, quindi è alla Casa del Cinema, questo gratuito. A Torino, Museo Nazionale del Cinema, la domenica e il lunedì, e a Milano per esempio c'è il Beltrade, quindi insomma la realtà è abbastanza varia. Logicamente siamo sotto Natale, gli esercenti, insomma, è un periodo in cui fanno molta attenzione, è un momento in cui incassano di più di tutto l'anno, quindi sono più i cineclub, quelli o i cinema d'estè molto piccoli, che fanno una programmazione particolare ad aver risposto positivamente alla proposta. Noi come visionari ci occupiamo in particolare dei documentari, il cortometraggio è una realtà che nonostante la diffusione e la qualità stenta comunque ancora, per quanto riguarda una visione pubblica, il cortometraggio ancora di più. Ecco, la realtà italiana oggi in questo senso, visto che fai parte del Centro Nazionale Cortometraggi, Jacopo? Sì, lo dirigo addirittura. Esatto. Ma guarda, la realtà è che c'è una grossa produzione, nel senso fin ipertrofica, a fronte di un investimento pubblico esiguo e un investimento privato quasi inesistente e una totale carenza di distribuzione, oltre che una totale carenza di strategia organizzativa, produttiva e anche distributiva, logicamente. Per cui ci troviamo, noi abbiamo appena pubblicato un report sull'industria del cortometraggio italiano e tu vedi che su 700 corti italiani realizzati nel 2014, rispetto a che sono cifre paragonabili a quelli degli altri paesi europei grossi come Francia, Spagna, Inghilterra, noi siamo al decimo, undicesimo posto per circolazione nei festival del mondo. Cioè, ci sono altri paesi, ci sono paesi come, non so, Spagna, per dire, il Portogallo, o realtà che in teoria dovrebbero essere un po' più piccole della nostra industria cinematografica, che hanno però o la Croazia, per dire, che hanno una maggiore progettualità, insomma, organizzazione, per cui questo aiuta molto le piccole produzioni a uscire, perché poi la qualità secondo me non è che sia tanto più bassa di quella degli altri paesi. Ci sono dei corti molto belli ogni anno, poi come nei documentari, anzi in tutto il cinema è sempre una minoranza il prodotto di qualità molto alta, però non siamo così inferiori alla Francia o alla Germania, insomma, questi paesi che riescono a spingere molto i loro prodotti. Allora chiudiamo, Jacopo, e per quanto riguarda, ricordiamo lo Short Film Day il 21 dicembre, 22 città italiane con 7 opere, alcune delle quali anteprime, più 6 lavori dedicati all'infanzia, e i riferimenti internet per saperne di più, Jacopo. Allora, www.centrodelcorto.it è il nostro sito, e poi ci sono altre due iniziative VOD, le posso segnalare per pubblicitario? Certo. Allora, una è sul sito, sulla piattaforma VOD di Film TV, della rivista Film TV, che è filmtvod.it, in cui è un'iniziativa gratuita, quindi vi potete iscrivere e per la durata del 21 dicembre, per la giornata del 21 dicembre potete vedere dei corti, e non sono gli stessi della Stalos, è ancora un'altra programmazione. E su repubblica.it lunedì sera ci sarà un'altra programmazione ancora sempre di corti italiani fatta da noi. Il principio è lo stesso, prenotazione gratuita e visione online. Allora Jacopo, un abbraccio, un in bocca al lupo. Grazie. E a risentirci presto. Ciao, a presto, grazie a te, ciao. Ciao ciao. Questo è Jacopo Chessa del Centro Nazionale del Cortometraggio sul Short Film Fest il 21 dicembre. Con questo chiudiamo, ci diamo appuntamento a tra due giovedì, perché il 24 non andremo in onda, ma il 31 sì, sempre su queste frequenze, sempre dalle 14 alle 15. Oggi Tracce di Cinema non andrà in onda e quindi si torna a gennaio con Tracce di Cinema. Tutte le informazioni per visionari le trovate sul sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari. L'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info. Ci ascoltate in diretta sugli 87.9 in modulazione di frequenza, ma anche in streaming, perché sull'home page del sito internet della radio c'è l'opzione Ascolta la diretta.